con l'autrice e attrice Eva Gaudenzi per parlare del suo spettacolo Parto, monologo di sola andata verso la maternità, a Roma, Baracca e Burattini, sabato 16 febbraio 2019. Eva, ben trovata. Grazie, ciao a tutti. Ci presenti questo lavoro? Certo, dunque si tratta di un monologo ispirato ad una esperienza realmente vissuta da me, quindi è un, come dire, un viaggio, lo dice infatti la parola stessa, per cui parto significa non soltanto il parto in sé, ma anche un partire verso universi sconosciuti, diciamo così, che finisce questo viaggio proprio con una nascita. Dunque si racconta ciò che viene prima, i tentativi di cercare di rimanere incinta e poi improvvisamente, quando nessuno se lo aspettava più, questo ragazzino arriva, insomma, e quindi si racconta parecchio della gravidanza, anche con ironia, fino ad arrivare a ricovere in ospedale, nello specifico il Fate Bene Fratelli di Roma. E lì dentro, insomma, se ne vedono un po' di tutti i colori. E la sala parto è effettivamente come fosse una nave, da lì l'idea e tutte le suggestioni legate anche al mare, soprattutto al naufragio, alla tempesta, perché il travaglio è un pochino questo. E siccome dal Fate Bene Fratelli in realtà si vede davvero il fiume e la sua forma ricorda molto una nave, davvero, sembra quasi che ogni donna che sta lì a fare il suo travaglio diventi il capitano di questa nave. Dove porterà, tutti lo sanno, se va bene, ovviamente, se il parto porta ad una nascita, se tutto avviene come deve avvenire, però è sempre comunque un viaggio molto personale. Io personalmente ci ho visto questo, ci ho visto tanto del capitano, ecco, che alla fine comanda questa nave in balia di onde altissime, dove sembra di non riuscire a sopravvivere, invece alla fine sì. E finisce con il cielo che si rischiara e la calma, ecco, diciamo, questa è la fine di questo spettacolo. Non si racconta altro, cioè non si parla del bambino, non si parla di quando cresce, cioè è proprio un'esperienza molto circoscritta che si vuole raccontare. Come è venuta la spinta a farne uno spettacolo? Diciamo che la prima idea me l'ha suggerita Eleonora Danco, che è un'attrice che io stimo molto e con cui stavo facendo un laboratorio, stavo studiando. E lei mi ha detto: raccontami, no, raccontami, sì, raccontami un po' di questo parto, com'è andata. E ho cominciato a improvvisare, teatralizzandolo, chiaramente. E da lì, ed è venuta una cosa molto bella e spontanea, e da lì mi si è accesa una lucina che mi ha detto: ma perché non provi a iniziare a scrivere tutto questo e continuare? E così ho fatto. E nel giro di poco tempo è uscito fuori prima la versione studio, che abbiamo presentato ormai già 2 anni fa alle Carrozzerie Not, e poi piano piano si è ampliato, ha preso respiro ed è uscito fuori qualcosa di un pochino più completo, insomma. E dall'altro, forse anche per me da mamma, guardare con un certo distacco quello che è successo, bello e tutto, però c'è anche un pochino di denuncia rispetto agli ospedali, a Fate Bene Fratelli soprattutto. È un'eccellenza della maternità, ma la donna viene ancora trattata purtroppo come un po' gallina in batteria quando c'è bisogno di partorire, quindi non si rispettano molto i tempi delle donne che devono partorire, del bambino, quindi spesso si ha molta fretta perché non ci stanno i tempi, c'è troppa gente, eccetera. Quindi quello in qualche modo si dice, io l'ho accusato parecchio, però alla fine è andata bene perché ho incontrato persone illuminate, ostetriche, brave, che hanno fatto andare il parto in un certo modo, però ci tenevo anche a inserire delle note di, diciamo, denuncia, sempre fatte tramite l'ironia, perché in questo spettacolo si ride, per fortuna, e non c'è nulla di realistico e né di sdolcinato, assolutamente, perché non è quello per me la maternità, insomma, non voglio raccontare quello, il cuoricino e tutto, perché non è così, è carne, come dire, è tutto molto fisico anche, non soltanto romantico. E quindi questo è stato anche un modo che evidentemente mi ha fatto bene evidentemente c'era bisogno, avevo bisogno di tirar fuori tutta questa roba che avevo vissuto. Ha preso forma lo spettacolo e sta andando bene, dunque aiuto così, insomma, sono Senti, contenta. vedendola da una certa distanza, con un po' di distacco, che impressione ti ha dato dopo? Beh, che alla fine, nonostante tutto, è comunque un bel viaggio e se sei in grado di togliere, di mettere da parte tutte le interferenze negative, quindi le persone sbagliate che incontri in ospedale, i consigli sbagliati, i tempi, eccetera, se tu te la sai gestire in modo personale e cerchi di farti sentire, perché sei te che in quel momento stai partorendo, allora è una bellissima cosa se ti lasci andare, se respiri. Nonostante tutto, è comunque una fantastica esperienza, perché ci sono donne che a seconda delle esperienze che hanno avuto, non ne hanno un bellissimo ricordo. Insomma, sicuramente vai a soffrire, non è che una passeggiata fa soffrire naturalmente. Quindi c'è un sacco di dolore, assicuro. E vederlo fuori mi fa un effetto un po' strano, devo dire, come se è la mia storia, sì, ma anche no, perché comunque dentro ci ho messo anche ovviamente cose diverse, no? Perché vengono dalla mia fantasia, quindi non è che è successo tutto esattamente in quel modo. Ovviamente esigenze di scena mi hanno portato a inserire anche momenti diversi, però comunque sempre inerenti, no? Per dargli più respiro e farlo leggere da più punti di vista. Però tante donne si sono riconosciute, tantissime, a parte che quasi tutte si commuovono un sacco, però insomma, vabbè, questa città. Però mi piace che molte spesso mi dicono che erano gli stessi pensieri che loro avevano avuto, le stesse paure, la stessa quasi esperienza, anche io ho fatto in quell'ospedale. E quindi ho tanti riscontri in questo, come se nel mio piccolo della mia esperienza in realtà la riescono a leggere in tante e tanti. E quindi bene. Hai detto dello studio di 2 anni fa, il suo viaggio comunque prosegue? Sì, prosegue. Noi intendo noi perché io faccio parte di un'associazione che si chiama Pane e Parole. Lo dice la parola stessa, insomma, noi facciamo sia piccolo catering che comunque eventi teatrali a domicilio. E questo spettacolo, fra l'altro, è portato spesso nelle case. Quindi questa storia qui continua, diciamo così, e ogni volta si modifica un pochino a seconda di chi hai davanti, a seconda delle case in cui entri. Si crea sempre un'atmosfera intima molto, molto bella. E più avanti sicuramente c'è l'idea di farlo in un tendone da circo che hanno appena installato da pochissimo qua nel mio quartiere, no? Io sto nel terzo municipio, a Montesacro, e c'è un meraviglioso tendone da circo che il proprietario che conosco da tantissimo mi sta dicendo vieni a farlo lì, vieni a farlo lì, l'ho fatto anche in altri luoghi non convenzionali, nel senso non prettamente teatrali, però è come se la storia di questo spettacolo si possa adattare un po' a tutte le situazioni, quindi mi piace molto la piega che sta prendendo. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, certo, dunque c'è la pagina Facebook dell'associazione che si chiama proprio Pane e Parole, e c'è sì, la pagina, appunto, il sito www.paneparole.com. Che altri, questo principalmente, poi c'è il mio profilo personale, vabbè, magari interessa di meno, e questi sono i nostri riferimenti con le attività aggiornate, dove noi portiamo di solito, fra l'altro durante lo spettacolo che farò sabato a Baracca e Burattini, daremo sempre qualcosina anche da mangiare, offerta al pubblico che ci verrà, a vedere, proprio perché a noi ci piace portare avanti queste due cose, appunto, Ok. le storie e le cosine buone da mangiare. E allora ricordiamo Parto, monologo di sola andata verso la maternità a Roma, Baracca e Burattini, sabato 16 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Eva Gaudenzi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, viva il lupo, grazie a te.